America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, copertina di questa settimana dedicata naturalmente all'ambiente, alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la cosiddetta COP21, che è partita ieri a Parigi per raggiungere un consenso che dovrebbe portarci alla riduzione delle emissioni di CO2 e all'introduzione di energie alternative, o meglio all'introduzione che presenti dei vincoli per l'uso di energie alternative. Ecco, ma a fianco di questa conferenza, il momento è molto particolare perché si tratta del primo grande evento a Parigi dopo l'attacco dei terroristi di un paio di settimane fa e devo dire che la risposta della comunità mondiale è chiara perché a Parigi ci sono almeno 147 capi di Stato e di Governo che solo con la loro presenza danno un messaggio molto molto eloquente a questa minoranza di estremisti islamici. Il messaggio, non ci lasciamo intimorire da terroristi vigliacchi che puntano alla destabilizzazione. Climate change is no longer just about the future that we're predicting for our children or our grandchildren. It's about the reality that we're living with every day, right now. Ecco, avete sentito Barack Obama? Sono a Parigi per incontrare altri 200 paesi per la conferenza sui cambiamenti climatici, un'opportunità per essere al fianco del nostro più vecchio alleato appena due settimane dopo gli attacchi barbarici che hanno avuto luogo a Parigi. E Obama sottolinea come questo incontro è diverso rispetto a quelli passati. Il presidente americano ha sottolineato che gli Stati Uniti cercano anche di mostrare una leadership perché? Perché devo dire che gli Stati Uniti in effetti in tema di controllo delle emissioni sono davvero all'avanguardia. E Obama dice: noi siamo riusciti a introdurre già delle modifiche sostanziali nell'uso dei carburanti e delle risorse energetiche in modo da diminuire le emissioni senza per questo portare danni alla creazione di nuovi posti di lavoro o alla crescita economica. Questa è la retorica. Ma da dove partiamo? Non so se prestare attenzione ai libri di futurologi come Charles Schoenebeck, che immagina un futuro fra 300 anni con un pianeta Terra ormai inospitale, New York disabitata, coperta da 11 metri d'acqua, comunità che si sono trasferite su Marte. E perché? Perché quando si poteva e si doveva fare qualcosa, cioè nel nostro tempo, in un periodo che quest'autore colloca fra il 2005 e il 2060, non si è fatto nulla di quel che si doveva fare. Fantascienza, forse sì, però sappiamo che il 2014 è stato l'anno più caldo nelle statistiche storiche, con un aumento di quasi un grado centigrado rispetto alle medie che risalgono al 1880. Qualcuno dirà poco, ma insomma soltanto un grado, ma insomma io direi di no, non è poco affatto, perché in termini climatici l'aumento di un grado è un balzo enorme, probabilmente tra l'altro sarà confermato già quest'anno. E poi abbiamo avuto notizia di come i ghiacciai si stanno sciogliendo, di come il livello della temperatura degli oceani sta aumentando e così via. Bene, non voglio darvi molti dettagli perché insomma li avrete ascoltati nelle altre cronache, vi do soltanto alcuni dati centrali: 40.000 partecipanti, 11.000 agenti per le strade, insomma è una mega conferenza davvero, ma voglio ricordarvi che uno dei progressi essenziali lo si è avuto nel corso degli anni quando i grandi paesi inquinanti, cioè Russia, India, Cina e Stati Uniti, alla fine hanno cercato di trovare un accordo per andare avanti. In particolare ero al vertice del 2014, al bilaterale fra Pechino e Washington, a Pechino, quando si è deciso di trovare un accordo per le riduzioni delle emissioni. Un accordo importante perché la Cina si impegnava a raggiungere certi obiettivi entro il 2030, gli Stati Uniti entro il 2025. E devo dire che in un momento in cui ci sembra che la comunità internazionale sia divisa dagli attacchi terroristici, da interessi diversi fra alcuni dei paesi leader, il fatto che ci si sieda attorno a un tavolo insieme e che si decidano degli obiettivi comuni è forse la risposta più civile e più importante alla sfida della paura che riceviamo ogni giorno da questi incivili, da questi barbari che cercano di intimorirci. sarebbero migliati approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho dedicato la copertina per questa settimana all'ambiente, si parlerà di ambiente per una quindicina di giorni a Parigi, e dunque di Neil Young non potevo che proporvi Mother Earth, Madre Terra, di cui dovremmo preoccuparci forse un po' di più di quel che facciamo. È tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.